canale 10, canale 10, c'è qualcuno sul CH10, 27075. Avanti, Riccardino. Eia, c'è qualcun altro? Ciao Gianni, comunque. Ciao Riccardi, sono dentro la lei, c'è l'ufficio, non lo so. Ah, boh, non lo so, stavo facendo una chiamata. E vabbè, perché ero su un altro canale, stavo chiacchierando e poi mi sono allontanato, non c'era più nessuno e quindi sono tornato sul 10. Brecco. Ah, eccolo, a quadrato. Eia, chi c'è qua? Doppio room. E poi? E basta, boh, non lo so, forse c'è qualcun altro. Ho acceso adesso, mi sono allontanato, ho fatto uno snack veloce. Io ho già finito di mangiare, dai. Avanti Gianni. Eia, io sono rientrato adesso da portare il cane, ho acceso e c'era solo Riccardino. Ha fatto un break e l'ho fatto entrare, non c'è nessun altro, a meno che ci sia qualcuno all'ascolto, boh, non lo so. Ciao Roberto. Anche io sono entrato adesso. Cosa volevo dire? Riccardi, beh, fatti lei queste collezioni sui Tanner, che non mi ricordo mai il nome di quel coso. Expander. Expander 500, chissà perché non mi vuole entrare in testa con la roba lì. L'hai provato? Sì, l'ho provato, bisogna che aspetta babbo un attimo perché ho provato a fare le connessioni, non mi fido molto perché dava un rumore brutto e non voglio rovinarlo col microfono. Aspetto un attimo a babbo, stava sistemando le batterie del camper, tanto fra un po' finisce. Ho avvertito il cambio sicuramente, Riccardi. Boh, perché era l'unico pezzo in cui sentivo ho unito questi due cavi, era il giallo e il nero, era l'unico in cui c'era la ricezione, quindi li ho messi, era l'unico posto in cui si sentiva, e quindi li ho messi lì. E poi però il rosso e il nero, quando li mettevo, faceva un brutto rumore, quindi non ne ho toccati più. Stai attento a non invertire. Mari, non hai collegato bene la massa, hai spostato la posizione di massa. Boh, vabbè, adesso lo vede babbo bene. C'è stato un break, avanti il break. Santiago 9, lupo grigio, dove sei tu adesso? No, ti vedo, la radio non è fortissima, però ti ascolto bene. Adesso ti rilancio doppio room e poi a Riccardino, vediamo doppio room come ti ascolto. Sì, ti ascolto, ciao lupo grigio. Ciao lupo grigio, ti ascolto basso, ti copre la propagazione. Comunque ti tiro un po' fuori con le pinze, però ti sento. Ha sentito Riccardino? L'ho un po' aperto, il finale l'ho sentito, che cosa ha detto? Fammi un attimo da tramite. Che è la prima volta che ti ascolta dal poggio di casa, ti ascolta bene. Gianni, molto ti arriva, forte. Prova, lupo grigio. Santiago 6, radio 3. Più o meno è Santiago 6, la radio, boh, non glielo so dire bene perché lo copre la propagazione, è un po' bassa. No, qua sei 9, radio 5, anche se devo dire c'è propagazione ma la superi. No, non è cambiato niente da parte mia, chiediamo a loro che loro so forse si ascoltano più basso. Avanti Gianni, come l'hai cambiato qualcosa? In che senso? Fa vedere, si prova, che stavo guardando al telefono. Roberto. Un attimo sta parlando. Peggiorato. Un attimo ricarica che sta parlando, così vediamo le prove che sta facendo. Metti il microfono, io. Adesso sei più forte anche di segnare. Riccardo, lo ascolto. Basta, ho detto la propagazione, lo copre. Lo sento a pezzi perché poi ci sono gli spagnoli e anche altri che lo coprono. Mi ascolti bene, lupo grigio. Ok, avanti Gianni. Era, troppo grigio, se è sempre quella la studia, se non si mette l'antenna arriva sempre così, il problema è quello. Aspetta, mi sposto un attimo. Bianco per me un attimo. Il cammino a casa adesso. QTH K. Purtroppo ti riceve il passo anche lui. C'è propagazione, a volte ti copre. Ho capito. Vabbè, tutti accontenti, non è sempre quella la ragione. Basta un po' di QRM, qualche cos'è, e si è fregato. Ho capito. Vabbè, succede, va. No, ci sono io, però ti copre, c'è propagazione, ti copre a volte. Sono tornato. Parla con Lupo Grigio che sta facendo roba. Sono rientrato anche io, e ci sono soltanto un attimino, dovevo vedere le cose di Casino. Ci sei ancora Nicola? Ma questo è sempre il portatile, il palmare, diciamo, come apparato. Come mai per essere in terrazzino ti ascolto, cioè sei accaduto a casa tua qui? Ma come mai sei così forte oggi rispetto a quando, vedi, sul tetto arrivavi forte, però in certi momenti magari ti abbassavi di meno, ti ascoltavo anche 9-10, però dentro casa così forte non ti ho mai sentito. Nicola, adesso ti sento un po' meglio, si è calmata un po' la propagazione. Ma non è che stai mettendo, lo stai alimentando con qualcosa di meglio rispetto alle batterie solite? Ok, no, non ti ascolto bene. A me la radio mia è chiara, non ho disturbi? Sì, se no io dico in questo momento mi ascolti bene, la radio è chiara o ti disturba la propagazione? Ok, meglio così, dai, perché qualcuno di loro ogni tanto si alza la propagazione, tu sei 9 per cui la propagazione la superi, però vari quelli che ti ascoltano Santiago 6-7 hanno difficoltà. No, diciamo in questo passaggio che hai fatto non c'è niente, c'ho il QRM a 6, diciamo, però sino a qualche secondo fa, qualche minuto fa, c'erano segnali belli forti. No, va benissimo, ok. Vai Riccardo per Nicola. Adesso meno male, come ho detto, un po' si è calmata la propagazione, no, io lo sento perché l'ho sentito basso, era 6 e infatti la propagazione lo superava, adesso come ho detto si è calmata un po' e lo sento meglio. Dove sei, che sei circondato da palazzi, la so la tua zona perché anch'io, la mia nonna sta in quella zona e lo so, è pieno di palazzi anche lì, io meno male ho un terrazzino da una parte, è tutto pieno di palazzi e non arriverei mai, e dall'altra meno male c'è un po' più di spazio in cui le onde possono propagarsi. No, è a casa sua, ha montato l'antenna nuova. non lo so, Riccardi, il movimento eri prima? Sì, prima ero in movimento, ero alla zona industriale da Carboni, ho preso le batterie per il camper. Mi ha detto il prezzo tuo padre, non ho capito se mi ha detto 73 o 83, Riccardo, confermi. 83, confermo, da 100 ampere, da 100 ampere 83 euro. Sì, il prezzo è ottimo, è un buon prezzo, io l'anno scorso li ho pagati 70, ti hai preso una batteria scontata da 100 ampere, normalmente non la paghi meno di 110-120 euro. Oh, non capisco questa cosa, cioè ci credi che da 95 ampere costavano più di quelle da 100 ampere? Dipende, però tu non devi guardare solo la cosa, la corrente o gli ampere ora, devi guardare anche la capacità della batteria, perché ci sono delle batterie da 80 ampere però hanno una capacità superiore, uno spunto superiore a un'altra magari anche da 100 ampere, dipende, devi leggere tutte e due le cose, i valori, sia gli ampere ora e la capacità della batteria. No, già l'ha visto Babbo, non lo so, non me lo ricordo neanche, perché ero dentro la macchina, stavo modulando dalla barra mobile in, come ho detto, nella zona industriale. Arrivavo bene con l'antenna che ho in macchina, arrivavo a Claudio Santiago 9. Sì, no, ma di lì Claudio è già abbastanza aperto, anche io per Daniele li ascolto a bomba, mi arriva a Monte Oro, a me mi arrivano per più 30, quando c'era quello col camion, infatti pensavo che fosse sotto casa, arrivavano per più 30 della Conforama, più lontano di Carbone. Ho capito, sì, ma quando è successo questa cosa del camion, che non me lo ricordo? No, oggi, qualche settimana fa c'era Fortunato che stava andando a riportare il camion e l'ho accompagnato da quando stava venendo dalla 131 da sotto Cotrongiano sulle gallerie, ha fatto, io lo sentivo perfettamente forte, poi mi ha detto, io pensavo che fosse qua vicino sotto casa, dice sono a Conforama, ha detto cavolo, 9 più, vabbè, io ho tutto aperto, quella zona lì, Monte Oro, le antenne le vedo pulite davanti a me, sono. Ho capito, vabbè, adesso c'è, non per vantarmi, però dico, adesso sono anche troppi i microfoni, la stazione è piena, non ce ne sta più neanche uno, e pensa che ne devono arrivare anche altri. Certo, però devi fare in modo di tenerti le radio, quante ne utilizzi? 2, 3, inutile averne 20, se le tieni belle e pronte a utilizzare col suo microfono dedicato, dopodiché quando le devi usare ogni tanto le alterni e poi ti fai come ti ho detto io, ti fai una doppia stazione, te ne fai anche una all'interno della cameretta tua, magari metti un apparato, una stazione base, così non c'hai né bisogno di alimentatore né niente, un bel microfono, l'antenna brava per te mettere, c'hai due stazioni indipendenti, fai qualunque cosa, vedi quando c'è brutto tempo, perché d'inverno penso che ci sia anche un po' di freddino di lì, se ne vai dentro là, dentro camera tua, la notte se ti vuoi fare ti viene voglia di fare qualcosa dopo che hai fatto i compiti o qualcosa, prendi e attacchi. No, lo so, infatti adesso porto tutto dentro, lascio due baracchini come ho detto qua lascio i due baracchini che vadano bene, che lì qua uso la direttiva e l'antenna perché non le voglio spostare, perché come entri dentro casa è bellissima vedere sopra il garage la direttiva e l'antenna, e mi porto tutte le stazioni in base, quasi tutti i baracchini dentro, alimentatori, e mi metto lì. Pensa che adesso che ho tutti questi microfoni da tavolo, li prendo tutti la notte prima di andare via e me li metto dentro, dentro casa sul tavolo, e gli butto sopra anche una coperta. L'importante è non ci sia umidità, perché non pensare che gli faccia bene la coperta, perché se c'è umidità e la coperta attira l'umidità, è tipo una spugna, per cui non è che gli detto che gli faccia sempre bene. Se è un posto asciutto non c'è problema, più che altro con la polvere, però se c'è un posto dove c'è umidità stai attento con la coperta che ti fa l'effetto contrario. No, è dentro casa, non c'è neanche un filo di umidità. Ok, Nicola, se ci sei riprenditi il mic, avanti. Scusa, non ho capito, alza un po' la voce perché in questo passaggio ti ho sentito basso di radio. Apparati CB, manda, non ho capito. Barra fissa. Avevo capito barra agricola. Sì, certo, qualcosa si trova ancora. Io penso sempre di sì, da parte mia io i veicolari a me non piacciono. se ti trovi un bel apparato di qualità con la rivelatura del suo dedicato eccetera, con tutte le funzioni, secondo me è meglio, perché non è il rompimento di scatole di alimentatori, di fili, di rientri, di ventole eccetera eccetera. Io preferisco 10.000 volte una stazione base con l'alimentatore dedicato. Ciao Marco, ben sentito. Ciao Marco, volevo dire a Lupo Grigio, se gli interessava gliene consiglio uno io. Non ce n'è come vuoi tu, omologati base. E chi te l'ha detto? E che cosa c'è base omologato? Dimmelo. Io ne ho due basi omologate, il Multicom della Intec omologato anche a normative c'è, cioè tutti e due le nuove omologazioni. Ma chi si vuole stazione base, ma finimi da roba che fa di chi fui su baracchini. Ma tu, vabbè, te non piace, perciò da me li fa a 10, a molti baracchini li fa 10 a 0. Tu mi dirai, di radio non è un gran che ci devi mettere un microfono, ma di ricezione ti sfido a trovare un baracchino meglio di quello. È meglio del 140, te l'ho detto e l'ho detto tante volte, lo ribadisco, è meglio del 140 in ricezione. E vieni a casa, ti faccio sentire Saturneco come c'è la ricezione e poi mi dà la risposta, pare essere eufonico. Quello lì non è una stazione base, roba, le stazioni base intendo quello in legno o quello tipo Galaxy, quelle lì sono stazioni base. Non che ci implastico. Ma tu l'hai visto quanto è grande il Multicom? Forse tu non l'hai visto da vicino. È un po' più piccolo del Ruiz ed è più grande del 140. Non capisco se intendi piccolino. È un apparato di nuova generazione a cristalli liquidi, ha tutte le funzioni possibili e immaginabili, lo puoi usare quasi come una sintonia continua. L'unica cosa che gli manca, che a me non me ne ha fatto nulla, gli manca l'eco, però c'ha tutte le funzioni di un apparato di grandissima qualità. E mi dirai che la modulazione è una cagata, nel senso che devi mettergli un bel microfono, se no non esce, però in ricezione c'ha a parte che c'ha uno smitter che solo l'HF c'ha uno smitter che arriva a 960, io non ne ho visto neanche uno, c'ha un rosmetro di altissima qualità, c'ha il modulometro, c'ha tutto, c'ha la scansione dei canali, ricerca dei canali eccetera eccetera, non gli manca niente, c'ha AM/FM, banda laterali. Meglio di quello come prestazioni c'è soltanto il 4009 della Superstar, che è un altro pianeta. Ma non mi piace, quello lì non mi piacciono, è tutto plastica, a casa non è fatto, è certo di vecchia generazione con l'apparato di roba e lascia perdere, dai. Non si può paragonare in base che dico io, perlomeno, poi se lui lo vuole non c'è problema, ma non lo fanno nemmeno più. Perché Saturneco ancora lo fanno? Saturneco è uno scatolone e basta, esce bene di coso, di radio, ma uno scatolone Bluetooth, su tu se lo apri è come il coso, il Pluto, messo dentro il coso, l'hanno messo un alimentatore, ma il Saturneco, trovare uno buono che non si è toccato è forse è peggio di trovare un ago nel pagliaio, sono tutti modificati, ducati, un sacco di problemi di alimentatori, infatti molti ne tolgono con l'alimentatore e ne mettono uno nuovo, di nuova generazione. Il mio non è così, il mio non è toccato, l'alimentatore va bene. Cioè non sono tutti così, no, vabbè. E poi Saturneco una cosa ti fa gli occhi quando lo vedi, è un apparato diverso, quello lì guardarlo proprio a me non mi ispira niente, poi bisogna avere ognuno c'è i suoi gusti, però io sto parlando per me. No, a me piace tantissimo il Saturneco, è un bel baracchino, lo fanno col Pescalipo, lo fa il Petrussi, cambiano i nomi ma sono tutti blizzisi, c'è la versione turbo, ne hanno fatto una marea di versioni, nero, l'hanno fatto con le lucette di diverso colore, l'hanno fatto argento, eccetera, non l'ho detto assolutamente, è un bel baracchino, niente da dire, però a livello di prestazioni di ricezione questo qua gli fa 10 a 0, ma non perché te lo dico io, parla delle prove, fa le prove con le antenne e poi ti vedi cosa tira fuori quel baracchino. C'ha una sinistrosità, c'ha dei filtri allucinanti, ti ripeto, con la stessa antenna, con 140 attaccato li fa 10 a 0, se la gioca con 440. Comunque a Lupo Grigio gli voglio parlare, ovvio al telefono ho quattro occhi, però il problema è che non ce l'ho, è sempre il più grande problema, vabbè, continuate. Vabbè, io ti ribadisco che questo qua è un signore apparecchio, il Saturneco, c'ha una modulazione. Perché ce l'ha lui, mi. Tu forse non l'hai mai avuto, il Saturneco non puoi fare paragoni, però questo qua è un bellissimo apparato, te lo assicuro anche in ricezione. Di anni, stiamo parlando di generazioni diverse di apparati, devi vedere i filtri che c'ha quello lì, e poi prova a metterti vicino uno come ce l'ho io vicino che ti tira fuori 300, 400, 500 watt e vedi che scompare, lo senti sbattere da tutte le parti, quello lì c'ha un filtro, un sistema di filtraggio, ti mette le mani in testa, è tutto digitale, cioè stiamo parlando di cose diverse. Io dico, il Galaxy Saturn è un grandissimo apparato nell'epoca sua, però confrontato alla ricezione di quello lì non c'è confronto. Come tu prendi un televisore analogico di 20 anni fa e lo paragoni a uno nuovo di sintonia digitale, stiamo parlando di cose diverse. Non sto dicendo, io ho Saturn Echo, a me mi piace tantissimo, è un grandissimo apparato, soprattutto come modulazione, come funzioni, c'ha tutto, non gli manca niente, però in ricezione è limitato rispetto a quello. No, non sono d'accordo con te, non è limitato, per una sembra stereofonica la ricezione di questo apparecchio. Io ne ho avuto 5 di Saturn Echo, voi che non lo conosca, poi tu hai detto Petrus, tutti quanti uguali, non è vero, che Petrus non c'ha il frequenzimetro, per dire, non sono tutti uguali, ci sono le imitazioni e l'hanno fatte anche senza frequenzimetro circa. Sì, quello confermo, ci sono tante imitazioni, ma ne hanno fatto diverse varianti di Saturn Echo, ne avranno fatto almeno 10 varianti, di diversi colori, di diverse potenze, con diversi strumenti, con il display di un colore, dell'altro colore, con i tasti di un altro tipo, ne hanno fatto una marea già, hanno fatto gli aggiornamenti continui, però quando parliamo di un apparato totalmente digitale, senza tutti i trimerini e cose di accordamento, stiamo parlando di due cose diverse, è molto più selettivo, meno rumoroso, eccetera, rispetto a Saturn Echo. Non che sia una cagata, mai lo dirò, mai le dica quelle parole, però ti sto dicendo, questo qua è una cagata di trasmissione, lo dico, lo dirò sempre, è una grandissima cagata di trasmissione, però in ricezione non viene, io fino adesso non ho visto nessun apparato superiore a quello, per andare superiore a quello devi andare su HF di iscritti, dai. Ma perché tu non hai avuto il Galaxy Saturn Echo? Se avessi fatto una comparazione con l'apparecchio Saturn Echo avresti visto la differenza che c'è, cioè questo qui ha una ricezione allucinante, a me mi basta la ricezione che ha, è anche un bel forte, è quasi stereofonica la ricezione del Saturn Echo, ma sta scherzando, per chi ce l'ha te lo può confermare, non lo so, poi quello lì è fatto tutto in plastica, ma potremmo stare tutta la sera parlandone, se tu non l'hai avuto non puoi sapere com'è. Ma non l'ho mai avuto, ma l'ho visto, l'ho provato, già ne conosco gente che ce l'aveva il Saturn Echo, l'ho provato, ti ripeto, stiamo parlando di due cose diverse, però è inutile polemizzare, non mi interessa, dai. Poi i gusti sono gusti, a me mi piacciono certi tipi di apparati, sicuramente un vintage di quelli con la bel frontalino tipo il DAC, secondo me il più bello apparecchio di vintage è il DAC, e poi puoi far vedere qualunque Saturn Echo e qualunque baracchino, il numero uno è il DAC, esteticamente non viene per nessuno, però anche lui magari ci avrà qualche limitazione in ricezione, non lo so, quello non l'ho mai visto, in trasmissione secondo me di quelli che ho sentito è il numero uno come modulazione, però un valvolare, stiamo parlando di cose diverse, la radio e la modulazione è unica di quello lì, però non dico altro. Poi ci sono quelli che, c'ho io un altro inter che stazione basso e magari lo vede qualcuno e dice, ah bellino, più bello del Multicom, secondo me di quelli che c'ho io è il più bello di tutti, io c'ho il Pace, c'ho il Royce che sono belli apparati, niente da dire, però quello lì stiamo parlando di cose diverse già, perché anche il Pace esce benissimo di radio, non gli puoi dire niente, però qui l'ha un bel golpe, quando c'è roba attaccata devi chiudere le refegen, se no non esce più niente, non senti più nessuno. Il Galaxy non è prende splatter, che tu voglia dire o no, splatter non è prende Galaxy, se ci sono proprio persone sotto casa che arrivano forti, basta chiamarsi appena le refegen, non li sento più. Ah, lo vedi? E allora cosa ti sto dicendo io? È quello che ti sto dicendo io. Tu ti metti sotto casa con un kilowatt e io ti faccio vedere che non c'è bisogno di mettere nessun filtro, perché ce l'hai in coso, e il filtro di coso, di saturazione ce l'hai in ingresso. Per cui non puoi attaccare quello che vuoi. Io col Pace, quando attacca una persona che c'ho qua vicino con un bel di potenza, se io non chiudo le refegen, non l'abbasso, io no, diventa muto l'apparato, va in saturazione allo stadio d'ingresso. Mentre col Multicom tu ti metti sotto con la macchina sotto dove c'è il coso, il baracchino non li fa niente, zero assoluto, è un sistema diverso di coso, di sintonia, cioè è tutto digitale, c'ha dei filtri, ti sto dicendo, no, già non perché ce l'ho io, perché ti ripeto c'ha tanti difetti, però a 140 come silenziosità li fa 10-0 e come ricezione li fa 10-0, a 140 non è un giocattolino rispetto a un baracchino, però in ricezione è molto meglio. A me non piace come estetica, roba inutile. inutile che insisti, non mi piace come estetica, è inutile che tu, io quando c'ho un apparato davanti lo voglio avere che mi prenda anche lui l'occhio, mi deve piacere, capito? Se no, se non mi piace l'estetica è inutile che ce l'abbia. Vabbè, riprendi con come si chiama, con Lupo Grigio, poi fai girare, se no restiamo tutta la sera a parlarne. Assolutamente, qua non stiamo parlando di estetica, stiamo parlando di qualità di ricezione. Avanti Lupo Grigio, c'è anche Marco, lo facciamo riprendere. Avanti Lupo Grigio, ti sei abbassato di segnale comunque Lupo Grigio, sei sceso a 7 adesso. Ero io, vabbè. Aspetta, Natalino, sta parlando Lupo Grigio, mi hai sentito? Avanti Lupo Grigio, non ho capito. Era Natalino, avanti Natalino, ti sei abbassato comunque Lupo Grigio da 9 a 7. Vai Natalino. Di che marca è questo Multicom? Volevo un po' di informazioni su quel Multicom, se lo fanno ancora per comprarlo. Sì che lo fanno ancora, almeno non lo so se lo fanno ancora, però già si trova mai in qualche negozio. L'Intec, dalla Intec. Cioè, allora non parliamo di estetica, perché sicuramente il Saturneco fa più bella figura, è un'altra cosa, dai, più appariscente, più bello, però questo ha delle funzioni diciamo un po' più aggiornate, c'ha un display a cristalli liquidi, gli strumenti di altissima precisione, sono tarati in decibel, non è una cagatina come strumentazione. E più c'ha prima la metà funzione, tocchi dei tasti, diventa una sintonia continua, cioè, diciamo se assomiglia a un 440, c'ha molta plastica come dice Gianni, però ormai gli apparati non le fanno più con i frontali in alluminio, con le fianchette in legno, diciamo non sarebbe conveniente costruirli, è tutto plastificato, tutti gli strumentini sono belli, sono bianchi, belli grandi, arrivano a 9,60, c'ha due strumenti, uno fa da Smith, l'altro fa da modulometro e da wattmetro, c'è anche il wattmetro questo apparato, wattmetro e rossmetro. Lo puoi regolare, c'ha il coso, poi c'ha le bande laterali, è omologato alla comunità europea, se qualcuno interessa anche quello lì, poi c'ha una tastierina che ti permette di entrare in funzione, c'ha la scansione dei canali, canale, vabbè non te ne fa niente, il canale 19 d'emergenza si va in automatico, se lo vuoi c'ha la scansione di tutte le bande, se lo vuoi fare andare in automatico. Aspetta, non ho capito niente, avete parlato di due, cosa hai detto? Che ce n'è due modelli di Intec, 4,5 e 4,87 mi fa. Il mio è un cocomane di Natalino, ciao Natalino. Il mio è 4,97 comunque. Il tuo, Robè. Dimmi. Il tuo, ciao Riccardo. Cosa hai detto Natalino? Ho detto, qual è il modello tuo? Multicom 497, il colore è grigio antracite, dai, simile a un po' più scuro di quello del 440, tipo lì come il CR7000 come colore, un grigio tipo aviazione, dai. Non è proprio nero, dai, è un grigio scuro, dai. E poi c'è un altro Intec che si chiama V3104, quello lì c'ha tutto lo stesso, c'ha il Roger Beep, il regolatore di potenza, ecco, eccetera, eccetera. Sembra più VHF marino perché risulta leggermente inclinato il frontale, però c'è un unico strumento. In trasmissione va meglio del Multicom, però ricezione è una cagattina, è un baracchino appena messo dentro uno scatola più grande, con l'altoparlante e scappa. Allora a me me l'hanno cercato su internet un radioamatore, voleva quel baracchino lì proprio espressamente, cerco questo baracchino, ce n'ha uno uguale al mio e Walter già si ricerca i baracchini. Io lo volevo perché da base è omologato, capito? Almeno lo butto nella montessa questo qui. Però devi metterci un microfono serio, io ho messo l'M600 di microfono, cioè, mi sembra. Aspetta. MB4, non va bene. All'inizio li posso comprare un farmer, non lo so. Però devo cercare di trovarlo. Guarda, il Tanner non l'ho mai provato perché avevo le connessioni, siccome autopulli le connessioni di quell'apparato lì, e c'ho il suo microfono, la panno più c'ho un altro microfono che si chiama l'MC33B, l'originale amplificato di quel microfono, sempre della Intec, e più c'ho l'M600, però gli ho messo l'M600, quello di quelli che ho messo è quello va meglio, però non l'ho provato né l'MBV5 né nel Tanner, ma col Tanner esce molto più forte. Già l'ho visto adesso qua, il cassetto è bello e come fa ricchio, non dispiace. Se è omologato come stai dicendo tu, e se lo trovo a comprarmelo me lo compro. Al manco di Rurampo, mamma mia, qua sto cominciando a odiarlo. Allora, scusate se sto monopolizzando, di quel baracchino adesso ricordo anche Gianni, c'è tutta una storia di questo quando l'ho preso io, se volete ve lo racconto. Racconta! Che avanti, questo è Portogallo, no, questo è un locale del Portogallo, stavo dicendo Natali, se volete ve lo racconto. Vai, racconta Roberto. Gianni già lo sa già, ma se volete ascoltare, allora, questo qua ce l'ho mi pare dal 2005 o dal 2, forse 2006 l'ho preso questo qua, su eBay, ho fatto l'offerta, ho vinto l'asta. Non arrivava mai questo coso, questo baracchino, ho detto che strano, sono passati 15 giorni, era periodo estivo, allora gli ho mandato il feedback negativo, dopo qualche giorno mi ha risposto, mi hanno telefonato, questo qua, non mi ricordo che zona era, tipo Bari, zona così, mi telefona questo qua, dalla provincia, proprio mi ha detto, questo è l'ufficio del coso, un attimo in linea, li passo il dottor, non so che cosa, provincia, non so di Bari, qualche zona di lì, o di Taranto, non lo so, un attimino in linea li passo il dottor, ho fatto pronto, mi dica, gli ho detto scusi ma il numero di telefono mio come ha fatto a saperlo, infatti non ho capito come sia riuscito a risalire al mio numero di telefono di cellulare, deve essere qualcuno molto importante. Sta di fatto che mi ha chiamato, guardi il coso, mio figlio l'ha spedito, cioè l'ha fatto senza avvisarmi, ha preso questo baracchino e l'ha messo in asta per venderlo, e io gli restituisco i soldi e non facciamo niente, no, lei non mi restituisca niente, io ho vinto l'asta e me lo deve, ma guardi, è un apparecchio che io ci tenevo, guardi non me ne frega proprio niente, lei me lo deve mandare come abbiamo stabilito, e quando lei mi manda il coso, il baracchino, io gli tolgo il feedback negativo e gli metto che è tutto risolto eccetera, ma sicuro, guardi io gli restituisco i soldi, li pago anche le spese delle cose in più, del trasporto eccetera, ho detto no, lei mi deve dare il baracchino, me l'ha dato dentro la scatola, tutto col suo microfono originale nuovo, fiammante, non ha un segno di usura, ha insistito, ho detto no, subito dopo qualche giorno mi è arrivato l'apparato, gli ho mandato il feedback di positivo e basta, questa è la storia del baracchino. Ma non sai quanto lo stanno vendendo? 80 euro. 80 euro? 80 euro l'ho visto io, in vendita. Se 80 euro me lo sto comprando adesso, me lo blocco tutto, sarà rotto già, non è possibile, quel baracchino lo paghi 200 euro, non di me. Non ho letto se l'ha rotto, ma c'era scritto Inter che 497 eccetera eccetera, euro 80. E dov'è? Fammelo vedere, se c'è me lo sto comprando adesso, non lo trovi a 80 euro, a meno che non sia sfasciato, io li ho visti oltre 200 euro, minimo 200 euro lo paghi quel baracchino. Oh Robè, dimmi Riccardo. Ma il figlio di questo che ti ha dato il baracchino sarà ancora vivo dopo quello che ha fatto? Non lo so, all'epoca era minorenne, cioè aveva 16 anni, ha detto peggio per lì, che poi se ne erano andati in ferie, come mai non me l'ha detto subito lei? Eravamo in ferie, e ho detto come mai non mi ha risposto alle email quando io chiedevo, ma io il computer ce l'avevo a casa, non l'ho visto, ha detto peggio per voi, adesso io il petto lo voglio e me lo mandate. Buonasera. Buonasera a lei, in compagnia mia, di Gianni Doppio Rum, di Natalino, di Nicola, non mi ricordo, lui Lippo Grigio, Marco e Riccardino. Adesso facciamo riprendere a Marco perché è quello più lontano di tutti, nel senso più lontano come tempo di parlantia. Avanti Marco, non c'è più. Comunque Riccardino, chi gli interessa, a mezzanotte alle 23.59 passa alla stazione spaziale oggi e si vede benissimo, è un punto, uno dei giorni dove si vede più forte degli altri giorni. Quanto? 23.59? Sì, dura 3 minuti, passa esattamente alle 20, alle mezzanotte passa. Ok, va bene, io sarò sveglio, tanto mi sa che ho sentito il Portogallo, mi faccio anche un giro, vado a caccia di propagazione. Comunque, ciao Kawasaki. Dove passa Roberto? Qua in Italia? No, passa su, sopra l'Italia, però è molto visibile, oggi c'è un picco, raramente si vede così alto come picco di visibilità. La seguite dura 3 minuti, mi puntate verso Porto Torres, dovete guardare, in direzione di Porto Torres, e poi fa tutto il giro e va verso Olbia. Ok, buonasera circolari. Ciao Riccardo, stavo ascoltando prima posizione, questo internet, io ho 500 euro adesso. Cosa ha detto? Scavagliano Romeo. Aspetta, avete parlato di due, scusa Luca, là. Cosa ha detto Tony? Che io per questo internet se lo vedo 500 euro in questo momento torno più. Se lo vuoi comprare 500 euro, ma questo è che te sto dicendo io. Sì, io. Non vedo 80 euro per Giorgiani, il portino costa 200, io ho 500 euro. Sì, 500 euro ci posso credere, se si pagano gli alla 48 a 400, 500, 700 euro pure li ho visti modificati, ma stiamo parlando di un giocattolo, alla 48 magari ci perdi tempo per fare le modifiche, ma se tu apri alla 48 non venuta, come una scheda e quattro fesserie, poi li aggiungono tutti il modulatore, ecco, eccetera, eccetera, ce n'è di lavoro da fare, però quando tu vedi una stazione base, lo apri, per sapere cosa c'ha il display, col frequenzimetro digitale, con i canali, è una bella bestia, più c'ha due strumentini che sono eccezionali, c'hanno una precisione, lo strumento è tarato in decime, non è uno di noi baracchini che va da conto suo, io lo confronto con gli apparecchi quelli più grossi ed è perfetto l'indicatore, arriva a 9,60, non è come quelli del coso che arriva a 9,30 col più, come dice qualcuno nel baracchino, è molto preciso, è tarato, ti sto dicendo, stiamo parlando di un baracchino evoluto. Poi tu mi dirai non ti piace, c'è molto di meglio, niente da dire, più bello di quello lì, di questi moderni c'è solo il Superstar 4009, ma quello è un altro pianeta, non c'ha niente a che vedere con questi giocattolini che abbiamo noi, quello si può attaccare al computer, c'ha un sacco di cose, c'ha due antenne, possibilità di collegare due antenne, ma è un apparato, io non l'ho mai visto, l'ho visto solo in fotografia ed è da paura, infatti se dovesse capitare qualcuno, ma penso che quello non costi meno di 1000 euro quell'apparato, sembra un TS2000. Comunque lo conosci tu il patch di XX 2300B? Io del patch ce l'ho 81-93, ma di base stiamo parlando. Sì, c'è molto vecchio, eh. Non ce l'ho presente, ma patch ne ha fatto tanti di apparati e diciamo sono abbastanza discreti, diciamo come baracchini vanno più che bene, soprattutto i veicolari hanno fatto la storia qua. Tanti amici, anche qua qualcuno ce l'ha avuto, il patch 123, e l'hanno avuto tante persone, sono apparati, ne hanno riempito tutto il mondo, come Midland, ce ne sono da tutte le parti. E basta. Ok, i Tokai ne hanno fatto tanti, è come ce ne sono altri 3 o 4 di marchi che hanno fatto la storia della banda cittadina. Ok, aspettate un attimino, io voglio far riprendere a Luca che mi ha chiesto qualcosa. Avanti Luca. Ho detto, che poi rimango in ascolto, non le volevo parlare, ho detto se riesco a vederlo da casa, ecco, sai dove abito. Certo che riesci a vedere, l'unico problema può essere l'inquinamento luminoso, se ci sono troppe luci di palazzi, ma a mezzanotte magari qualche palazzo non ti disturba, tu fai conto tipo una stella grande che la vedi camminare, tipo un aereo che vedi camminare nel cielo, alza lo sguardo in direzione di Porto Torres, però se hai presente dura 3 minuti il passaggio, alza lo sguardo e lo vedi e lo segui, se poi ti scarichi quella pagina, quell'applicazione che ti ho detto io, ti mette proprio la tua posizione e ti indica la bussola dove lo devi vedere, ti dice da destra verso sinistra di quanti gradi eccetera, ma diciamo se non c'hai tutta la strada illuminata già la vedi tranquillamente, io l'ho vista qua l'altro giorno benissimo, l'hanno vista quasi tutti. Ma in questo momento si trova Oceano Pacifico? Boh, aspetta che guardo, penso di sì. Sì, vabbè, sta passando, ecco. Luca! Oh, dimmi. Ti ho mandato l'amicizia, ti ho chiesto l'amicizia su Facebook. Ma infatti ho detto chi è questo qua? Sì, a sto accetto. Sì. Ciao Catonino là. Tra un po' inizia Tussiche Vales. E ce lo guardiamo tutti, ciao Luca. Allora Luca adesso ha superato la Nuova Zelanda, sta andando verso l'America Latina, è nell'Oceano Pacifico questo, sì l'Oceano Pacifico, di lì è il giorno dove sta passando, tra poco arriva sul Messico, è esattamente a metà strada, tra la Nuova Zelanda, un po' più vicino alla Nuova Zelanda, tra poco arriverà sul Messico. E a mezzanotte passa in Italia, cioè passa, si vede qua, dai. Sì, sì, sì, c'ha il picco di luminosità, infatti è da molto che io non lo vedevo. Proprio, ci sono tutti gli indicatori dove ti dice massimo, minimo, adesso oggi è al massimo come picco. Ho capito, se non mi addormento. Ma io non ho capito cos'è che è passato. Ah passa la stazione spaziale internazionale e passa, siccome gira intorno alla Terra è a 400 km di altezza, è quota bassa rispetto ai satelliti normali, fa 15 giri al giorno intorno alla Terra, e in certi momenti ci sono delle situazioni dove è più vicino all'Italia, siccome le orbite non sono fisse, oggi passa proprio esattamente sopra l'Austria, per dire, ed è vicino all'Italia, siccome è molto in alto è come che tu vedi un aereo che sta camminando sul cielo, e invece la stazione spaziale. Sono campagna, tutto proprio. Sì, campagna guai, se non c'è inquinamento luminoso di palazzi, vabbè palazzi non ne avrai, o di qualche faretto, di qualche lampione, tu la dovresti vedere perfettamente. Tu guarda in direzione nord e poi da nord va verso Olbia, zona di Olbia, ancora la zona lì dovrebbe andare. Ma l'altro giorno, scusate, il monopulio, è mai successa una cosa del genere, io l'ho vista, sembrava un elicottero, sembrava un'astronave, talmente era grande e bella, luminosa, era poco prima dell'imbrunire, era un effetto mai successo di verla, e sono spaventato il cielo, questa cosa è chissà cosa, sembrava un elicottero argenteo come forma, la forma di un elicottero con la carlinga, diciamo, dove c'è il comando del pilota di lì e poi dietro la fusoliera, ma era enorme, una cosa, questa cosa è chissà cosa. E poi invece no, questa è la stazione spaziale, e qualche volta si vede anche l'altra stazione, o questa è quella internazionale, poi c'è un'altra stazione un po' più piccola e capita certe volte, però quella è un po' più difficile di vederla perché di dimensione, questa tenete presente è 105 metri per 60 come dimensioni, a 400 km di altezza, ed è una cosa esagerata, mai l'uomo ha costruito una cosa così grande nel cielo. Va anche un bel veloce, va a 27.551 km/h. Sì, da una velocità assurda, infatti fa 15 volte al giorno il giro della Terra, poi se vi dovete divertire, se per dire passa sopra la Sardegna, raramente passa, in tempo reale c'è la webcamera ad alta definizione, uno ci clicca sopra e si può fare la fotografia di quel momento lì della Sardegna o di qualunque parte dove sta passando. Scusa, cosa hai detto, i radioamatori? Sì, assolutamente è vero, non sono tutti che gli permettono di farlo, però abbiamo qua un grandissimo radioamatore qua di Sassari, che è uno di quei pochi che lui l'ha collegata più di una volta, la stazione spaziale, ed è quello un grande riconoscimento, ti danno un attestato, un diploma molto ma molto importante. E poi ci sono gli istituti scolastici, diciamo professionali o informatici eccetera eccetera, che è capitato poco prima del coronavirus, una mattina è passata sopra l'Italia, c'era quell'astronauta italiano, non mi ricordo come si chiama, e hanno fatto dei collegamenti, e l'ha registrata, la registrazione ce l'ha anche Marco Condor, se volete ascoltarla ve ne andate su YouTube e c'è la registrazione molto molto buona, di qualità, si sente solo unilaterale, solo la stazione che risponde, non si capisce quelli che chiamano, è 145-800 la frequenza di trasmissione di ascolto. Antonio Di Monteoro, io l'ho sentita dal vero, la ISS, da Piazzale Segni l'abbiamo collegata, abbiamo fatto l'antenna apposta ed l'abbiamo piazzata sul palazzetto dello sport e ci siamo collegati da lì. Ma in ascolto, non in trasmissione? No, trasmissione, c'è il radioamatore Antonio. Le hanno risposto ad Antonio? Certo che lui è appassionato di satellite, di cose. L'ho sentito dal vero io. Stavamo lavorando per fare proprio l'antenna per collegarci. L'abbiamo fatta noi l'antenna per il satellite. Sì, Antonio Di Monteoro è uno dei primi che ho sentito che si collegava a satellite. QX per me. Sì, scusa, allora aspettate un attimino, una cosa è collegarsi ai satelliti di trasmissione, un'altra cosa è collegarsi alla stazione spaziale, stiamo parlando di due cose completamente diverse e ci vogliono autorizzazioni, non è che rispondano a tutti, sennò tutto il mondo parterebbe. Mi sembra molto strana a me questa storia, Natali. Probabilmente lui si è collegato al satellite, non alla stazione spaziale, che so io, l'unico che si è collegato e uno dei pochi in Italia è Marco, e buh, non ne ho sentito altro. Vabbè, non fare lo stuzzo, ti sto dicendo che si è collegato alla ISS, hai capito? E c'ero anch'io quando si è collegato. Addirittura c'aveva un VHF che perseguitava la traiettoria della stazione spaziale, capito? Ti sto dicendo che se si è collegato, se te lo dico io, credi? Sì, ci credo Natalia, però ci vuole un'attrezzatura, la devi inseguire con una parabola, non è che ti attacchi con l'antennino e la prendi, ci vuole una parabola che si muove e la insegue, dura 3 minuti il passaggio, non è una cosa, è molto difficile collegarsi, oltre che ci vogliono autorizzazioni. Sto dicendo che si è collegato, con me non scommettere, perché se no andiamo da Antonio e troppo su di da Edu. Ti dico che abbiamo fatto l'antenna proprio per collegarci alla stazione spaziale e ci vuole l'apparato che la insegue proprio, se no sparisce subito. Sì, credo Natalino, ci mancherebbe, però non lo sapevo, io sapevo soltanto Marco, uno dei pochi Marco che l'ha fatto, perché è molto, ma molto difficile farlo, lo devi inseguire il coso, è talmente stretto il passaggio, corto, e devi seguire proprio le antenne. Vabbè dai, non c'è problema, e ci credo tranquillamente. Facciamo riprendere chi c'era qua, Lupo Grigio, avanti tu e poi Riccardino che era in parcheggio e Gianni. Avanti Riccardino, ti arrivati. Eia, ti dico, l'ho sentito basso e mi sono anche distratto, immaginati te che mi devo concentrare sulla radio e quando sto parlando mi devo concentrare, non devo guardare altro, perché stavo guardando le connessioni di quel Turner. Ma chi le sta facendo, tu o tuo babbo le connessioni? No, stavo guardando com'era, stavo guardando su che apparato lo potrei provare, perché stavo anche spolverando apparati da mettere dentro, stavo così scegliendo, stavo dividendo quelli a mettere dentro e quelli a lasciare qua. Eia, ok, vai Gianni e poi Luca e se c'è Marco, non so se c'è ancora Marco. Eia Rob, io sono testimone, tu quel periodo non c'eri nemmeno frequenza, ma Monteoro, Antonio di Monteoro, rifaceva anche dalla campagna da dove abitava questi collegamenti. E vi ricordo anche quella volta che l'hanno fatta con Natalino, che hanno fatto questa cosa qua, perché Natalino me ne aveva parlato che stavano costruendo questa antenna proprio per parlare con satellite. Cioè io sono sicuro che Antonio di Monteoro fosse stato uno dei primi che ha collegato queste cose. No, ci credo, però siamo attenti. Natalino dice che l'ha fatto l'ISI, se ci credo, però che collegano i satelliti, ci sono dei radioamatori che fanno solo satelliti, non ne frega niente, fanno collegamenti con la Luna, utilizzano la Luna come riflettore, eccetera. Però una cosa sono i satelliti, un'altra cosa è la stazione spaziale, stiamo parlando di due cose completamente diverse, perché satelliti ce ne possono essere migliaia che le fanno, collegare la stazione spaziale nel mondo ce ne sarà qualche centinaio o non di più. La canzone che noi abbiamo collegato si chiama anche i professori delle scuole la fanno sentire ai ragazzi, per dirlo a te, che ci sono radioamatori che si collegano dalle scuole addirittura. Poi basta dirlo a Marco, tu dici Antonio, ma come si chiama, il nome tra il comune, IS0 e Bio, si chiama IS0 e Bio, digli così a Marco a vedere cosa ti risponde. Sì, no, Natalino, non ne sto dubitando, ci credo, però sto dicendo soltanto che chi l'ha fatto non è da tutti fare una cosa del genere, è quello che voglio insistere io. Poi se l'ha fatta anche lui non lo sapevo, io pensavo fosse uno dei pochissimi Marco, ci credo che l'ha fatto, però che fanno i satelliti, ce ne sono tantissimi gli allevatori. Poi come hai detto tu, le scuole soprattutto fanno queste cose a livello scolastico, gli istituti di telecomunicazioni, gli istituti professionali, si collegano perché passa in giorni particolari, in orari particolari, e non è detto che quando passa sia, come si chiama, possibile collegarti, a meno che non hai attrezzature di altissimo livello, di antenne di altissimo guadagno, di inseguimento, motori per l'inseguimento, eccetera. Solo quello sto dicendo, non è come collegarti al satellite, ci sono anche i pirati a quel satellite che si collegano ai brasiliani, di piatti una parabolica, figli e punti. Io quando l'anno scorso, anzi 2 anni fa, ho venduto a un radioamatore che non faccio il nome, una parabola grossa di 2 metri, l'ho venduta per collegare ai satelliti, ma non per la ISIS, era per un'altra cosa, un altro tipo di lavoro, e gli ho data io una parabola grossa che a me. Vabbè, comunque come ti sto dicendo io, tu allora ci credi che io sono arrivato alle isole Svalbard? Ci credi tu? io sto dicendo che ci sono arrivate e c'è la QSL. Chi ne dubita? No, no, no, assolutamente no. Anche io ho fatto la Patagonia, ma è successo, probabilmente non mi succederà mai nella vita di collegarti alla Patagonia, però cacchio, quello c'aveva 3 kW, una direttiva orientata al nord verso l'Italia, e ci siamo ascoltati, siamo fatti più di un'ora parlando. Questo era un faro, ma non è che la colleghi tutti i giorni la Patagonia. Qualcuno a me mi ha detto che ha collegato l'Australia, mi sembra Giulio me l'ha detto, ma è successo e non ne ho mai sentito di gente che ha collegato l'Australia. Qui l'Australia è lontano, lo so, lo so. Io Liliari non ne ho mai usato perché sono contrario a usarli, perché sennò ce l'ho anche volendo. Però per dire, 200 watt dell'apparecchio è blu. Sì, certo, se c'è propagazione, però siccome stiamo parlando di una distanza enorme, cioè la Patagonia è su vicino al coso, al polo sud, proprio la parte più bassa della, del continente del Sud America, proprio la punta a punta del coso, la terra del fuoco, e c'era un faro proprio alla punta più bassa del continente sudamericano, lui aveva un'antenna direttiva, mi ha detto con 3 kW in antenna, probabilmente se non avesse avuto i 3 kW, cioè la direttiva, anche se aveva 50 kW non l'avrei ascoltato. Lui ha messo chissà che cacchio di antenna aveva, qualche cosa cubica o qualcosa del genere, e mi ha ascoltato, siamo stati più di un'ora a parlare, ma è successo e penso non succederà mai più una cosa del genere, come è improbabile che tu ascolti l'Australia, è talmente rara una cosa del genere. Non sa mai, te lo ricordi a Salvatore tu, il radioamatore S0, allora Claudio come si chiama? IFB, IS0, IFC, te lo ricordi tu, quello che è grasso con la motoretta, con la motocicletta? Certo me lo ricordo, cacchio, è figlio di mio padrino e di mia madrina, a lui anche me lo ricordo, ma lui in HF, io sto parlando, io l'ho collegato in 27 in banda laterale. Per dirti, quando saliva a casa mia in campagna, io avevo tutte le antenne perché me le avevo costruite, quindi è con cognizione di causa che ti parlo, in 80 metri ha dovuto fare, in 80 metri ti sto dicendo, di sera, ha dovuto fare la lista a uno per nominativo, li chiamava, di quanti ce n'erano che volevano collegare la Sardegna. Certo, Salvatore, facendo il conto, era una macchinetta, era eccezionale, ha preso qualche diploma pure, si è beccata a te. C'è qualcuno sotto che vuole andare avanti? Tonino, ancora con Rix? Era anche bravo parlando l'inglese, Salvatore, io l'ho sentito parlando con l'Inghilterra, eccetera, eccetera, parlando in inglese, era bravissimo. Ma l'ha fatto anche da casa mia, è venuto un apparato che ho io, me l'ha dato lui a me. Bella, gliel'ho fatta io, solo che gli mancavano gli 80 metri perché non aveva spazio lui, la mia era multibanda, da tutte le parti andava, quella che avevo fatto io. Infatti quando gli ho fatto l'antenna poi non c'è più venuto in campagna, perché sennò lui veniva in campagna da me a farsi i collegamenti. Allora in questa idea che si ha fatto, non hai idea tu. Poi già te lo dice lui, se lo chiede. Lo so che probabilmente nessun radioamatore ha fatto i collegamenti che ha fatto lui con quella velocità, era una cosa assurda, e faceva 50 all'ora, 200 all'ora, ad esempio, scriveva nominativo veloce e passava all'altro, faceva tipo gare, tipo record, me lo diceva lui, aveva fatto una gara a livello nazionale, era arrivato tra i primi, sempre che non l'abbia pure vinta, non ci sono i contest, non so quanti ne aveva fatto, quanti centinaia ne ha fatto, ma era una macchina. C'è gente che si diverte a fare quel tipo di lavoro, altri che fanno collegamenti in QRP, altri che fanno lunghe distanze, altri che fanno i satelliti, eccetera. Ognuno si specializza su qualcosa. Ok, facciamo riprendere a Riccardino, avanti un attimino. Ok, riprendo io, Roberto. Volevo sentire, Lupo Grigio c'è ancora? Che anche lui era un po' in parcheggio. Lupo Grigio ha detto che stava in ascolto, perché c'era freddino. Ci sei ancora, Lupo Grigio? Vabbè, ok, riprendete, io ero qua, va bene, sono qui, da. Sì, che ti copiamo, Lupo Grigio, lasciate un po' di bianco però, se no lo pestate. Ti copiamo, io ti copio. scusate, colpa mia. Sì, mi ha detto che rimane in ascolto, mi hai sentito già. Un po' grigio, ti hanno parlato sopra, non sono riuscito a capire cosa hai detto. Lasciate un attimo di bianco, vediamo cosa lì. Sì, ma ti sentiamo lo stesso, io parlavo, non ti ascolto. Vabbè, cosa fai? Resti in quel Rix ascolto oppure chiudi? Ok, Robo, eri prima. Sì, ma l'avevo detto anche prima che rimaneva in ascolto perché c'era freddo. Ok, e purtroppo probabilmente Riccardino non l'ha sentito perché era nel fondo. Adesso è molto più basso di prima, era 9 prima, poi è sceso a 5 adesso. Cosa volevo dire? Che c'è rimasto? Luca, ci sei ancora? Nisba, Marco, come si chiama? Mi ricordo sempre il nome in attivo, Marco Condor. Marco è entrato. No, mi ha fatto sentire invece, è anche difficile Natalia ascoltarla, oltre che trasmetterla. Aspetta, non ne parliamo, ci vogliono attrezzature e grande professionalità, però ascoltarla non è semplice, ho provato tante volte e non ci sono riuscito. Non so, ci vuole, adesso non mi ricordo com'è, la funzione Doppler per il coso, per ascoltare la stazione spaziale, e lui si collegava, non è la prima volta che l'ha collegata, poi dillo a Marco e lui lo dirà. Essendo i diplomi che ho fatto io come SWS, adesso me ne ho portato uno qua da campagna più la licenza d'ascolto, che non si sa mai, è meglio averla qua. No, comunque è andata lì, è in chiaro, 145-800, FM stretta, e come si chiama, è in chiaro la cosa, la stazione spaziale, poi trasmette a 436, di lì utilizza dei sistemi particolari, digitali, di trasmissione. Purtroppo non hanno grande potenza, è molto limitata la potenza, mi sembra che siano 10 watt, ho letto da qualche parte, come potenza, per cui non è facile da ascoltarla, proprio quando ce l'hai in testa riesci a prenderla. Marco Coso mi ha mandato il video che c'è lui a Piazza dei Segni e l'ha ascoltata benissimo, perfetta, però sentiva solo la MIR, la ICDSS, la MIR non entra nulla, anche russa, la sentiva e non sentiva le domande che facevano ad altri, sentivi solo la risposta, però si capiva cosa chiedevano perché in base alla risposta riusciva a capire. Noi l'abbiamo sentita chiara di russo, però c'era l'antenna sul tetto del palazzetto dello sport. Siccome lui è geometra del comune e faceva lui le licenze per dare queste cose, quindi aveva l'ufficio lì dentro e noi abbiamo costruito l'antenna proprio, abbiamo attaccato le apparecchiature, lui sapeva quando passava, gatto, tac, e la pizzicata in pieno, e c'ero io il giorno. Ah, lo vedi, Natalia, stavo parlando, tu mi hai detto, in macchina, infatti ha detto, quanti vai in macchina, ascolta. No, cosa è in macchina? Se abbiamo fatto l'antenna apposta per poterla ascoltare, no, non è così, no. È difficile. È per quello che te l'ho detto, cioè avevamo l'antenna sul tetto del palazzetto dello sport. Ecco perché abbiamo collegato e tutto. Proprio per quello. E poi c'aveva anche l'apparato che aveva quella funzione che ti ho detto per poterla perseguitare, se no lei sta sempre camminando e quindi sparisce. Eh certo, dura 3 minuti il passaggio, poi più si allontana e proprio non abili più. 3 minuti il passaggio di visibilità, se è presente, in 3 minuti passa, per dire, dalla Spagna arriva il Kazakistan, per dirti a che velocità cammina, ce la vedi, se tu ti guardi sulla mappa satellitare, la vedi in movimento, attraversa l'Italia in pochi secondi, in 20 secondi, 10 secondi attraversa l'Italia. Infatti è una cosa, ci vogliono accorgimenti, insomma bisogna essere formati per poter fare questi legamenti. Ok, vabbè, detto questo io mi rifugio in buon ordine e me ne vado a vedermi un po' di TV. Lei ha già Natali ben sentito, dai. Vedi,